Castellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Questa settimana partiamo da un'iniziativa dal vivo anche in questo periodo di semi-lockdown. Dal 10 al 13 dicembre viene portato nei cortili dei palazzi popolari dell'Ater, di Primavalle e del Quarticciolo, Romeo e Giulietta, un amore popolare, il regista Leonardo Buttaroni. Romeo! Romeo! Il progetto Romeo e Giulietta negli Ater, un amore popolare, nasce da un'idea di Progetto Goldstein, che in questo momento di crisi per quanto riguarda l'arte, dove non si possono fare eventi dal vivo, ha avuto questa idea magnifica di portare all'interno dei cortili degli Ater, quindi dei quartieri popolari di Roma, uno spettacolo che non verrà visto da un pubblico classico, cioè nel senso schierato o invitato a vedere lo spettacolo, ma direttamente dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze di questi cortili. Dove sei, Romeo? Tu sai quanti morti piazza. Questo Romeo e Giulietta sicuramente non è un Romeo e Giulietta tradizionale, ma l'ho riportato indietro nel tempo agli anni 80, a quegli anni 80 che abbiamo vissuto e amato tutti, dove c'era una Roma di quartiere, dove i bambini giocavano in piazza, dove vedevi gente che scendeva giù e si metteva in cortile a parlare. È una Roma poetica, come lo è Romeo e Giulietta. Questo Romeo e Giulietta ambientato in quest'epoca mi ha permesso di creare una situazione un po' particolare. Ci sono due bar nella stessa piazza che per anni e anni e anni si sono fatti la guerra, come si usava un tempo quando c'erano le comitive che nell'interno del quartiere si scontravano. Quindi avremo da una parte i Montecchi, che saranno dei Paninari, e dall'altra parte i Capuleti, che saranno dei Tozzi, come si chiamavano una volta, o comunque un po' più rocchettari, diciamo così. Guardare lo spettacolo basterà affacciarsi alla finestra dei palazzi dell'Ater il 10 e l'11 al Quarticciolo, il 12 e il 13 dicembre a Primavalle, oppure su Facebook nella pagina La Città Ideale. Arriviamo a Napoli, dove Gennaro Cannavacciuolo mette in streaming i suoi one man show tra musica e teatro e interazione con il pubblico. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. L'online si è rivelata una risorsa impagabile ed è quello su cui ovviamente punto. Ora è già visibile l'integrale dello spettacolo Volare, concerto a Domenico Modugno. La prossima settimana invece farò una diretta con tutti gli abbonati e la settimana dopo un concertino live con alcuni dei miei musicisti. E poi ogni tanto comunicherò tante altre cose di volta in volta. Per esempio una prova di trucco, una mini lezione su come si indossa un costume e così via. Promenade significa passeggiata in francese. Cici, la promenade o te la fai corta se il palco è corto o te la fai lunga, come vuoi tu, dipende dallo spazio. Quindi promenade. Oltre Volare, appunto per i primi dell'anno è programmato Gran Varietà, il peccato erotico umoristico nella canzone d'epoca. È un divertimento sul doppio senso, sempre in musica, con i musicisti. Poi il mio spettacolo su Yves Montand, quindi La Vedova Allegra, e tanti altri in corso di definizione. Dove fai tornare la testa? Io prometto impegno e anche alcune sorprese coinvolgendo miei colleghi con i quali dividerò, molto importante questo, il ricavato. Et de Notre Dame. Oh. al fuoco bandato, qui in mezzo a Panama, tu potrai arrivare, il correo. L'accordeon da marinier. Basta andare sulla pagina Facebook di Gennaro Cannavacciuolo, diventare sostenitore per accedere agli spettacoli. Torniamo online a Milano, dove Elena Sgarbossa va in streaming con Cheo, performance tra danza e teatro che parla di una capsula spazio-temporale. Cheo è una performance che si ispira alla storia di una capsula del tempo inserita in un satellite artificiale dell'Agenzia Spaziale Europea. Al suo interno vengono custoditi messaggi scritti dai cittadini della Terra, messaggi riguardanti la loro idea di futuro, le loro paure, speranze o semplicemente racconti o dettagli di vita. La capsula del tempo è stata ideata per uscire dall'atmosfera terrestre, rimanere in orbita per 50.000 anni e poi ritornare sulla Terra, schiudersi e rivelare il suo contenuto. La performance è composta principalmente da due parti. La prima parte si svolge fuori dalla sala teatrale e consiste in un'installazione interattiva in cui le persone presenti possono scrivere, con carta e penna, un messaggio che sarà custodito da una capsula del tempo. Questi fogli rimarranno chiusi fino alla replica successiva di Cheo. La seconda parte invece corrisponde con la performance vera e propria e il suo nucleo risiede nell'apertura di alcuni messaggi provenienti da una replica precedente di Cheo. Questi fogli, una volta compiuto questo viaggio geografico e temporale, vengono aperti e tradotti segno dopo segno tramite un alfabeto corporeo prestabilito ma sconosciuto. Lo spettacolo utilizza il linguaggio della danza contemporanea e del movimento in generale per creare un alfabeto in cui ogni lettera corrisponde ad un gesto e per attuare questo processo di traduzione dei messaggi scritti dal pubblico. Streaming sul canale YouTube di Triennale, youtube.com/triennalevideo fino al 20 dicembre. Arriviamo a Bologna, dove viene presentato Saga di Zimmer Frei, che si compone di 4 episodi, ha come protagonisti giovani, dalle cui storie emerge una nuova idea di cittadinanza. I ragazzi protagonisti hanno partecipato al laboratorio del Teatro Arena del Sole di Bologna. Ci racconta tutto su Saga Anna De Manincor di Zimmer Frei. Dal 9 marzo è cambiato tutto. C'è il coronavirus. È tutto chiuso, bisogna rimanere in casa, non vado a scuola. E anche film non segue le lezioni da casa. La saga ha una lunga storia, è proprio una saga. È un percorso di lavoro che dura da 3 anni ed è una specie di romanzo di formazione in forma di film, nella forma di 4 piccoli film che hanno ognuno un centro diverso, ma le persone transitano in tutti gli episodi, si intrecciano. Se andassi in Ghana, che era la mia prima scelta, sarebbe davvero assurdo perché mi ritroverei a fare un viaggio come quello di Jacopo in direzione opposta. Però in aereo, in 4 ore, essere là. E hanno per protagonisti dei ragazzi e ragazze giovanissimi che chiamano casa la città di Bologna. E Tea è nata qui a Bologna, Jacob è nato in Nigeria ed è arrivato a Bologna proprio 3 anni fa. Filmon e Bana sono nati in Eritrea e sono cresciuti qui. E Ada è nata a Bologna 10 anni fa. Adesso devi ripetere insieme a me. Okay. Giuro. Giuro. Di essere fedele. Di essere fedele. Alla Repubblica Italiana. Alla Repubblica Italiana. E di osservare. E di osservare. La Costituzione. La Costituzione. E le leggi dello Stato. E le leggi dello Stato. Il link per vedere Saga è programmazione.cinetecadibologna.it/proiezione/saga. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordiamo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it e che potete andare anche su podcast, dove ci sono anche gli indirizzi web degli spettacoli. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.